Gruppo Nord Letras che trasmette direttamente dalle frequenze di Roma Est. Questa è dedicata al mio fratello Jovez. Missione compiuta e il disco tra poco fuori. Disperanto sulla traccia. Jovez, remember that, Torino rappresenta. Stacca il cervello da ste frivolezze. Ho in mente passi da gigante affinché possa oltrepassare il mese. Spesso vinto da ste bestie, leggo libri di Herman Hesse. Ghiaccio e sangue che nascondo sotto le coperte. Yeah, gonfio quanto la mia vena. La mia è pura poesia, la cui missione è stare in scena. La sfera di sta penna arde, impietrito sulle gambe, piedi a terra, cieli o saldi. E questo è l'importante. Soldi spesi, persi nell'ascesi delle robe, delle rime, delle pare in cui ci anneghi. E se mi chiedi una risposta non c'è. Se siamo persi in questa roba che porta il nome di rap, repettoni con i baggies, boots e cappellini. Torino è storia di sta musica, c'è scritto sopra i libri. E se mi chiedi una risposta non c'è. La mia missione è farmi il culo con sto cazzo di rap Esperanto. E mo chi perde, troppo in basso per le fighette, troppo in alto per le merde, tutta esperienza. Quando vedi un live degli MPD e KRS One, pensi che sia fantascienza e l'hip hop unione. Tutti contro tutti, uguale divisione. Dal ghetto blaster, il wifi, dalle masse alle battle, al far freestyle, classe 94, tu che ne sai. Ormai dicono che il tempo è passato, ma che musica finora avete ascoltato? Io dagli sole posse al comitato. Scusa, eri distratto, passare dalle bombolette per poi essere sul palco a sfidarci al tecniche perfette. È tutta scena, almeno un minimo di conoscenza. Usiamo un po' di coscienza, ogni rapper fa la sua differenza. Senza nessuno che lo aiuta diventa una missione compiuta. E lo sai, non deludo, passo e chiudo, Vez.